Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo cena, i soldati italiani animarono la serata con canti, balli e giri in bicicletta. In quella sera, in quel paese della Grecia, pareva di essere in pace e a casa, ad una di quelle feste di paese che c'erano anche dalle nostre parti. Sono Luca Gorla, abito a Seveso, sono uno studente universitario di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente presso l'Università di Milano Bicocca e la storia di oggi non parla di ambiente. Tripolis, Grecia, 29 giugno 1941. Ogni domenica voglio trattenermi scrivendo ad una persona cara. Oggi sono con la mamma. Cara mamma, è proprio vero che una madre ha sempre da soffrire per i propri figli, sino a quando ha l'ultimo fiato. Ora sembra che la burrasca sia finita. Speriamo che non ne vengano più. Perciò sta tranquilla. I tuoi figli si trovano bene e al sicuro in una caserma greca, in un pagliericcio con paglia e non più con le ossa proprio a terra. Stamane siamo stati ad ascoltare la santa messa del nostro cappellano, una messa molto commovente, con accompagnamento della nostra musica. Stamane ricevetti anche uno scritto di papà e un foglio di Yolanda dicendo che Antonietta è un po' spiacente perché non la ricordo in particolare. Antonietta, ne ho anche per te e sempre ti ricordo e so anche di essere riconoscente della rinuncia di Roma per la nostra assenza. In seguito scriverò anche a te. Oggi è San Paolo, cosa avete fatto al papà? Termino salutandoti caramente, tuo figlio Domenico. Coraggio, verrà anche il giorno di rivederci. PS, saluti da Ettore, senza barba. Sono le 16:10, oggi è martedì 22 di ottobre 2013 e la cosa che vi ho appena letto, più che una cosa, è una lettera vera e propria che risale alla data che avevo detto in apertura, il 29 giugno 1941. Ce la manda l'autore della puntata di oggi, che è Luca, che racconta una storia che è piuttosto comune a questo programma, o meglio, è proprio un contenitore di storie, che sono i racconti dei nonni. Non fosse altro che i nonni della generazione vicina alla mia, anche se Luca è più giovane di me, insomma, ma tra i 20 e i 30, più tra i 30 e i 40, diciamo, sua nonna è vissuta a lungo, ha avuto la fortuna di raccontarlo per tanto tempo. Però soprattutto la generazione tra i 35 e i 40 ha avuto, o qualcuno ha ancora la fortuna di avere, i nonni che hanno memoria di un periodo storico che ci è attaccato alle spalle, in realtà, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, ma che sembra lontanissimo. Insomma, questi nonni sono carichi di quei racconti, sia le nonne che erano a casa e aspettavano il nonno e arriva il pippo e si nascondevano nei fossi in campagna, oppure in cantina se erano in città, ma anche e soprattutto dei nonni, che hanno quelli che hanno avuto la fortuna di ritornare, che quindi avevano un sacco di cose da raccontare di una vita assurda vissuta lontano da casa in mezzo alle bombe a spararsi contro gente che non ti aveva fatto niente sostanzialmente. E la storia di Luca oggi l'abbiamo cominciata con questa lettera che vi ho letto. Non è del nonno, ma è del fratello del nonno, cioè lo zio Domenico, che però era proprio insieme al nonno Ettore in Grecia in guerra. Abbiamo aperto così perché oggi parliamo di questo, parliamo delle storie che i nonni ci raccontavano e in particolar modo parleremo di questa, cioè della storia del nonno di Luca e di quel pezzo di storia militare italiana che è avvenuta in un posto un po' decentrato, che era la Grecia, decentrato rispetto al cuore della Seconda Guerra Mondiale, che era la Grecia, e che è stato poi raccontato molto bene in un film che era mediterraneo. A questo proposito, a breve leggeremo anche una cosa da cui è stato tratto quel film. 349-238-6666. Più tardi vi leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati, che raccontano le storie che i nonni raccontavano legate alla guerra. Arriva il pippo, è un po' un tratto comune a tutti quanti. Questa qui però è la storia di Luca. Immaginate di essere molto giovani, immaginate che ci sia una guerra, immaginate di essere in Grecia. La Sciura Elisa oggi ha 98 anni, è vedova da quasi 25 e abita nell'appartamento di fronte al mio. Io sono nato in una calda mattina d'agosto di 25 anni fa e il caso vuole che in quello stesso anno la nonna sia rimasta vedova. Nei miei primi anni di vita i miei genitori sono stati poco presenti. Mio padre lavorava lontano e mia mamma era presa tra lavoro e la malattia di mio nonno. Quindi la nonna Elisa si prese un po' cura di mio fratello Davide e specialmente di me. La signora Elisa, fino a 5-6 anni fa, era una persona molto abitudinaria, con un forte senso del forte senso civico, quindi partecipava a qualsiasi attività politico-culturale del paese. Poi negli ultimi anni con l'età si è rinchiusa in se stessa, non è più andata a messa, non è più andata al cimitero, non è più andata al mercato, fino agli ultimi tempi in cui, vabbè, Ferragosto ha compiuto 98 anni, quindi, e fino agli ultimi tempi che ha avuto un po' di problemi di salute. Per tenermi buono mi raccontava le storie di vita vissuta di mio nonno Ettore e della nostra famiglia, soffermandosi in particolare su quegli anni 40 che hanno segnato la storia di tutti. Tra i miei avi tutti hanno fatto la naia, chi più chi meno. Io per anni ho chiesto di farmi raccontare di quando il nonno era militare. Poi 5 anni fa, proprio in questo periodo, dopo alcune visite, le diagnosticarono demenza senile del tipo Alzheimer. Tutte quelle fantastiche storie che avevano cullato la mia giovinezza stavano per andare perdute. Quindi colsi la palla al balzo, decisi di scrivere la tesina di maturità del liceo sulla vita militare prima in Grecia e poi in Albania e poi in Germania di mio nonno. Tutti i pomeriggi, dopo pranzo, andavo da lei e le dicevo «Quinta su come l'è andata?» E lei raccontava fiumi di parole, a volte ripetendosi. Mi diede anche qualche lettera scritta dal fronte e qualche poesia. Mi parlava di tutti gli episodi che sapeva e che io bene o male ricordavo. La descrizione non è facile, perché lei veniva a prendermi a scuola, mi riempiva il pomeriggio con tutti questi racconti, queste storie. Quindi un bambino si mette lì, ti ascolta, ti guarda, ti assorbe come una spugna tutto quello che gli viene detto, specialmente quando è la nonna. E questo è uno di quei racconti, uno dei racconti più significativi. Mio nonno era stato mandato in Grecia, all'epoca terra da conquistare. Un giorno, mentre con altri commilitoni era in pattuglia per le colline che circondavano la zona, tra i cespugli trovarono un montone. I tre, stanchi e affamati, si capirono con uno sguardo. Presero il montone, lo portarono in città e cercarono qualcuno capace e con gli attrezzi per macellarlo. «Se potrà minga occupa una bestia come si occupa una mosca», diceva mio nonno. Trovarono un vecchio in paese che faceva il macellaio e con il commilitone salumaio si diedero da fare. Quella sera prepararono da mangiare per tutti, ma proprio per tutti. I soldati di occupazione cenarono con gli occupati rimasti. Tutti portarono qualcosa, noi il montone e la polenta, i greci il vino, il pane e le verdure. Dopo cena i soldati animarono con canti e balli e giri in bicicletta. In quella serata, in quel paese della Grecia, pareva di essere in pace e a casa, ad una di quelle feste di paere che c'erano dalle nostre parti. Χωρίς φτερά στους δρόμους να γεράσω. Io come sempre ne so molto poco della guerra, se non i racconti fatti da mia nonna e da mio nonno che in guerra c'era stato. Ho trovato però nella libreria di casa questo libro che racconta dei militari italiani finiti in Grecia. Si intitola Saga Po e dice così. Il soldato Musso non si vestiva, stava così nudo a prendere il sole. Di lassù il mare si vedeva immenso, fasciante tutta l'isola, di un colore violetto o azzurro o verde. Qualche volta, nella pienezza del sole, quasi bianco. Nel mare c'era un'isola, più in là un'altra isola più piccola e più lontana, quasi uno scoglio, e poi più niente, mai una vela. Ed egli rimaneva inerte in quello stordimento datogli dal sole, pensando a Chetti, a Nausicaa, all'Italia. Lassù spesso il vento era continuo, forte. Lo isolava, parendogli di vivere quasi in un altro mondo. Invariabilmente verso le 3 di ogni notte moriva, lasciando in tutte le cose un senso irreale di vuoto. Ecco, così trascorsero i primi giorni. Egli si era messo a razione sia per il mangiare che per le sigarette. Le sigarette erano poche. Ne vide giungere rapidamente la fine. Smettere di fumare lo rese nervoso. Raccolse tutte le cicche che aveva buttato nei primi giorni, cercandole tra i cespugli con una pazienza infinita, ma anche quelle presto finirono. Il mare era sempre uguale, terso, non mai solcato da imbarcazioni. Solo un giorno scorse all'orizzonte un sottile pennacchio di fumo. Aguzzò lo sguardo per vedere meglio, ma il fumo era già scomparso. Anche gli aeroplani non solcavano più il cielo. L'isola pareva dimenticata. Sagapò è il titolo del libro da cui ho estratto questo piccolo brano che vi ho letto, l'autore Renzo Biasion. Avete presente Mediterraneo? Ecco, in sostanza i pezzi di questo romanzo, le storie che sono in questo romanzo hanno ispirato Gabriele Salvatores a fare quel film là, quei personaggi là, ma soprattutto quell'atmosfera là. 349-238-6666, si parla sì dei racconti dei nonni. Oggi però prendiamo chiaramente a riferimento il racconto dei nonni di Luca, della nonna e soprattutto del nonno, che è stato in Grecia in quegli anni, nel 1943-1944, quando alcuni soldati italiani erano là, erano in questo posto magnifico che è la Grecia, in particolar modo le isole greche. Però quando noi abbiamo letto questo racconto e ci siamo detti, ah beh, certo, come no, i riferimenti, Mediterraneo, quella parte di militari italiani in Grecia, ma ci siamo detti, ma esattamente però come ci siamo finiti là in Grecia? E quindi abbiamo deciso di chiedere a qualcuno che, come al solito e come spesso accade, ne sa più di noi, nella fattispecie Alessandro Breccia, che è assegnista di ricerca all'Università di Pisa. Pronto Alessandro? Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Tu sei uno storico di fatto, ti do del tu perché più o meno abbiamo la nostra età, ho visto sul tuo profilo. Però sì, certamente, sono uno storico contemporaneo, ecco. Ricerca all'Università di Pisa in storia contemporanea. Ad esempio, mi dici che cosa stai ricercando proprio in questo momento, in questi giorni? Ma guarda, in questo momento sono in viaggio perché vado a presentare un libro che ho curato sul 68, e sul 68 nelle università italiane. E poi ho fatto anche ricerche invece sul periodo più vicino al tema, diciamo, della vostra trasmissione, cioè sulla resistenza e sul periodo sostanzialmente immediatamente successivo alla caduta del fascismo. Alessandro, allora andiamo subito in medias res e uso questo termine solo con, giuro non l'ho mai usato prima in vita mia in diretta, però solo perché c'è uno storico al telefono. Andiamoci dentro, come ci siamo finiti noi italiani nel 43 o dimmi tu se è corretto il periodo in Grecia? Sì, allora, più precisamente noi ci siamo finiti, per usare l'espressione che hai usato, nel 1940. Okay. Noi ovviamente non per caso, ma per una scelta del regime e se vogliamo insomma dello stesso Mussolini. Cioè nel 1940, nel giugno, l'Italia entra in guerra a fianco della Germania nazista, a fianco di Hitler. Molto presto si chiude la partita della guerra contro la Francia, quindi sul fronte occidentale. Mussolini ha la sensazione che la guerra si stia per chiudere con una vittoria assoluta da parte dell'alleato nazista, vuole anche la sua parte nella vittoria, e allora in maniera anche un po' improvvida apre un nuovo fronte, cioè il fronte orientale, partendo dall'Albania nell'ottobre, punta verso la Grecia. Quindi alla Grecia ci arriva passando dall'Albania? Perché nel 1939 le truppe italiane avevano occupato l'Albania, che era diventata sostanzialmente una nostra colonia. E già in questo, cioè attaccare Grecia nell'ottobre partendo dall'Albania, commette degli errori militari molto rilevanti, nel senso che i porti albanesi non erano sufficientemente capienti per ospitare le truppe italiane così tutte insieme, e poi soprattutto era ottobre, fine ottobre, quindi di stagione delle piogge, insomma i soldati italiani in brevissimo tempo si trovano impantanati con una forte resistenza da parte dei greci, e gli italiani sono costretti a dispiegare addirittura 500.000 uomini nel giro di pochissime settimane. Insomma, una strategia militare impeccabile, oserei dire. Una strategia militare che è stato messo in luce dalle ricerche, presentò veramente grandissimi limiti e grandissimi errori. Ma Alessandro, più o meno sappiamo quantificare quanti italiani finiscono sparpagliati sulle isole greche? Sì, è difficile fare una stima precisa, sicuramente siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di soldati divisi diciamo tra le isole e la parte continentale. Ok, quindi insomma sono tra le isole chiaramente il resto della Grecia. L'ultima cosa Alessandro e poi ti lascio andare, ma questa sensazione per cui i militari italiani nelle isole soprattutto venissero comunque accolti bene e si insediassero in quei posti diventando quasi degli abitanti, è reale, è concreta o è una fantasia? Ma ovviamente c'è qualcosa di romanzato in tutto questo, però c'è da riconoscere che furono poi moltissimi i soldati italiani che soprattutto dopo l'8 settembre 1943 passarono tra le fila della resistenza greca, da quel momento in poi al fianco dei partigiani greci contro i soldati nazisti. C'è da ricordare ovviamente la strage di Cefalonia che portò alla morte più di 10.000 soldati italiani dopo l'8 settembre del 43. E quella è una delle cose che in realtà ci si ricorda di più di quel periodo. Io ti ringrazio moltissimo Alessandro, anche perché sei in treno, quindi la linea va e viene. Alessandro Breccia, assegnista di ricerca all'Università di Pisa. Grazie mille Alessandro, in bocca al lupo. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, grazie. E intanto Laura scrive sul profilo Facebook, non a proposito di Grecia, ma a proposito di racconti della nonna. Mia nonna mi raccontava sempre di quando, durante la seconda guerra, per non farsi derubare dai soldati fascisti, scavò una buca profondissima. Vi nascose l'unica cosa che ricevette come dote dai genitori, cioè le lenzuola ricamate. Le lenzuola ricamate sono quelle che avevano anche le iniziali. Le nonne ci tenevano tantissimo. Finita la guerra, tornò a prenderle e qualche anno fa le regalò a me. Quando le vedo mi vengono i brividi. Ci sono mille storie della sua vita e me la raccontava durante il nostro rito del caffè. E poi ancora Vincenzo, mio nonno mi raccontava di quando in un vicolo di Napoli si finse storpio non appena vide due SS che si avvicinavano dal lato opposto. Si prese sputi e qualche calcio, ma quella mossa così furba li fregò totalmente. E queste storie che sembrano veramente delle storie, forse perché sono lontane, sono accadute 60 anni fa, sembrano delle cose quasi folcloristiche. In realtà bisognerebbe soffermarsi anche 3 secondi per pensare di essere una persona che cammina in un vicolo, incontra due SS che probabilmente potrebbero semplicemente sparargli in testa in 2 secondi e si inventa di farlo storpio. Vabbè. Mia nonna mi raccontava quando, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, le navi bombardavano la città di Genova dal mare e quando ero bambina io, negli anni 70, nella zona del porto, c'erano ancora alcuni palazzi segnati dai proiettili. Vi chiedo di fare una cosa. Vi chiedo, oltre che di andare sul sito, se avete voglia, di vedere la foto della nonna di Luca, ci ha mandato la foto della nonna e non la sua, vi chiedo di prendervi 20 minuti questa sera, o domani, o il prossimo fine settimana, e di immaginare un racconto che racconti qualcosa di voi, e di mandarlo al nostro indirizzo. Voi siete qui, @radio24.it, noi ne facciamo una puntata, però se l'avete già mandato vi chiedo invece un'altra cosa, di avere solo un po' di pazienza, perché i racconti sono tanti e noi ci mettiamo in coda a leggerlo. Raccontate storie, scaricate il podcast sul sito di Radio 24 o attraverso iTunes e soprattutto ringraziate insieme a me Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte che hanno fatto questo programma e più di tutti Luca che ci ha mandato questa storia, perché appunto il racconto di oggi era il suo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Gianni, sono di Sassari, ho 28 anni, la storia di domani è la mia e parla di come a volte l'amore riesca a farti fare delle cose che non immagineresti mai di riuscire a fare. Questa è la mia storia e io sono qui.